tempo di sport. Ci sono state medaglie in mattinata ai mondiali di nuoto, assegnate al Porto Antico di Ostia. La 5 km di fondo femminile ha aperto il programma del nuoto in acque libere con Melissa Gorman, australiana, che ha vinto l'oro su Ischenko, Russia, e Orimoto, Brasile. 10° posto per Rachele Bruni, 17° per Giorgia Consiglio. Mentre nella 5 km di fondo maschile ha vinto il tedesco Lurz in 56 minuti e 27 secondi davanti al greco Giannotis e al sudafricano Chad Ho. È arrivato quarto il nostro Luca Ferretti, che sentiremo più tardi nello spazio, come sempre, dedicato al nuoto con il nostro inviato a Roma, Dario Ricci. Un altro risultato che ci porta a un passo dal podio. Ci riproviamo nel pomeriggio con Tania Cagnotto. La finale del trampolino da 3 metri inizia alle 15.30. Parleremo dunque anche di nuoto. C'è il calcio in primo piano con alcune dichiarazioni di ieri che sono state un po' più incisive rispetto alla routine e agli standard piuttosto omologati di questo periodo. È anche difficile trovare dichiarazioni e temi che vadano distanti e lontani dalle solite considerazioni e dai soliti proclami. Ieri però c'erano due giocatori che avevano in maniera diversa la necessità di chiarire la loro posizione. Sentiremo più tardi Adrian Mutu. Sentiamo subito invece Fabio Cannavaro, che ha proposto così il suo punto di vista al ritorno in bianconero dopo l'addio del 2006, dopo tanti proclami per il ritorno al Napoli da parte sua e dopo che invece è arrivata la firma con la Juventus. Ecco Cannavaro. Capisco, come ho detto, l'amarezza che c'è stata 3 anni fa, perché comunque il primo a cui stava bene la Juve ero io. Non è la mia intenzione mancare di rispetto a nessuno, era solo specificare una cosa. La mia venuta qui, io sono venuto a Torino alla Juve perché comunque la società, ne abbiamo parlato. Appena sono venuti a casa mia, io dissi: guarda, basta anche questo gesto, adesso non, se vuoi parlare di altre cose parla col mio procuratore, per me già va bene così. Questo era Fabio Cannavaro. Naturalmente le vostre considerazioni su questo tema e su altri all'800240024, i messaggi sms al 349-238-6666. Dunque, per capire con Roberto Beccantini quali sono innanzitutto le considerazioni generali del popolo bianconero, perché in questa fase si tende un po' a differenziare. I tifosi più civili, più sereni, hanno capito e sono tornati a tifare per Cannavaro perché indossa la maglia bianconera. Gli altri, quelli un po' più esagitati, continuano a non perdonarlo. Buon pomeriggio, bentornato a Roberto Beccantini. Qual è la tua considerazione aggiornata su questo tema? Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito. Ma guarda, nessun aggiornamento. Il tifoso ha il diritto di contestare, per l'amor del cielo, se lo fa in termini civili, col fischio, con il cartellone ironico, ha assolutamente diritto di giudicare. Se poi sia minoranza o maggioranza rispetto al pensiero dominante o dominato, questo è un altro discorso. Però ha diritto a giudicare. Quindi che sia, in questo caso, se non ho letto male, una minoranza che contesta Cannavaro, lo contesti. Io personalmente sul piano tecnico non avrei fatto l'operazione, però oggi Cannavaro alla Juventus, vediamo cosa farà, cosa succederà. L'importante è, e qui ovviamente sfondo una porta aperta, riscopro l'America per l'ennesima volta, che non si arrivi agli eccessi del sequestro di giocatore per autografo. Io ero a Jeuf domenica, ma mi dicono che a Pizzolo è successo anche questo e non deve succedere. Sai, il rapporto fra tifoso e giocatore è sempre un rapporto affettivo, quasi di mamma e moglie, non so come dire. Esaltano i tifosi dei Los Angeles Galaxy a offendere Beckham, ma anche Beckham esagera nel pensare che dopo aver fatto un po' la prostitutina non possa ricevere nulla contro, hai capito? Bisogna essere un attimo realisti. A questo proposito, tu fai considerazioni soprattutto sul piano tecnico, il tifoso forse le fa anche di altro genere e ricorda... No, sul piano tecnico, sul piano, per esempio, citando anche l'esempio Beckham, proprio sul piano della, ho detto prima, del rapporto quasi per il tifoso, il giocatore... Sì, no, io mi riferivo a Cannavaro. La mamma e la moglie, capito? Sì. Tu mi riferivo a Cannavaro, mi pare di aver capito che insomma... Sì, certo, poi c'è anche questo discorso, ma è mio, non del tifoso. Esatto, infatti volevo capire con te se secondo te ha un peso questo discorso di Cannavaro di ieri, oppure il tifoso sa bene che alla fine anche Buffon aveva le stesse possibilità, se non di più, sul piano del mercato di Cannavaro per andarsene nel 2006 e non se ne andò, tanto che a un certo punto quando si trovò di fronte Alessio Secco gli disse: guarda, se poi proprio voi volete, avete bisogno che io vada via, io sono a disposizione, però non è mia intenzione. Può avere un peso il discorso di ieri di Cannavaro o il tifoso non dimentica? Guarda, io in questo caso sto con Giuseppe Gazzoni Frascare, scusa se esco un attimo dal seminato, ma non tanto. Cosa rispose l'ex patron del Bologna quando gli chiesero della Menarini, di Moggi e dei tifosi del Bologna? Arrivano 3 o 4 vittorie, se non ricordo male, e uh-huh. I tifosi se ne sbattono di Moggi. Cioè. Quindi figurati se la Juve di Cannavaro o con Cannavaro, perché sarebbe meglio e più opportuno la seconda versione, con Cannavaro, azzecca le prime partite, figurati il tifoso, se ne sbatte, dimentica quello che avrebbe voluto ricordare a tutti i costi, cioè quello pseudo tradimento quando nel 2006 successe quel che è successo. Ci sono altre considerazioni che naturalmente sono parallele all'acquisto di Cannavaro, al suo arrivo, che riguardano la Juventus. Come vedi e come motivi questo grande entusiasmo? Se ci fosse ancora Ranieri sarebbe la stessa cosa, se la Juventus avesse chiuso al secondo posto e quindi migliorando il terzo dell'anno prima, come alla fine ha fatto nella stagione precedente, ora puntasse a migliorarsi ancora, sarebbe la stessa cosa con gli stessi giocatori o il cambio di allenatore incide in tutto questo? No, io penso che il cambio di allenatore abbia inciso, non penso che sia giusto che abbia inciso il cambio di allenatore, perché io sono appartengo al partito che considera il lavoro di Ranieri well done, come direbbero gli inglesi, cioè ben fatto, al di là dei limiti, degli errori di mercato e di scelte che sono, insomma, anche lui è un umano, però è chiaro che anche il cambio di allenatore, ripeto, ha inciso. Non a caso la società Foro Fianetta ha scelto un allenatore molto caro al popolo, o comunque non certo inviso. Devo dirti anche che noto troppo entusiasmo intorno a questa Juventus. Io forse perché sono della vecchia generazione, sono figlio del famoso 6-1 che il Bologna nel 57 inflisse alla prima Juventus di Boniperti, Charles e Sivori, 6-1 con 4 gol di Ezio Pascutti in un amichevole precampionato. Poi la Juventus vinse, stravinse quel campionato e Sivori dimostrò di essere un genio. Però ecco, da quel risultato lì tutti i precampionati io non li considero. È chiaro, la Juventus è più forte della scorsa stagione, questo sì. C'è sul fronte dell'Inter la squadra tiranna, il problema, l'incognita del dopo Ibrahimovic, sì. Vedremo, però piedi per terra, perché gli scudetti d'agosto fanno fare titoli ai giornali ma non danno titoli alle squadre. A proposito del dopo Ibrahimovic, volevo coinvolgerti anche su un altro tema che è molto lontano sul piano temporale, però è il caso forse di puntualizzare un paio di aspetti. Come sappiamo, tu sei da anni il nostro rappresentante nella giuria del Pallone d'Oro per l'Italia. Il Pallone d'Oro si assegna alla fine dell'anno solare, ultimamente, ancora più di quanto accadeva negli anni 80 e primi 90 probabilmente, viene determinato soprattutto da quanto è deciso a metà dell'anno solare, quindi i mondiali, gli europei, la Champions League. Quest'anno Messi è stato grandissimo protagonista del triplete del Barcellona e anche in finale di Champions. Nella prossima stagione ci sono i campionati del mondo. Possiamo dire che è vero che Ibrahimovic lascia l'Italia per andare a vincere il pallone d'oro, però sarà un lavoro lungo comunque per lui? Lascia l'Italia anche per andare a vincere il pallone d'oro, su questo non c'è dubbio. Ti ripetete che il mondiale, più che alla prossima stagione, nel caso del pallone d'oro, appartiene alla prossima edizione. Sì, 2010, sì. Ecco, perché questa edizione del 2009, come hai sottolineato, secondo me, giustamente, l'ha in pugno in questo momento Lionel Messi, che fra parentesi è arrivato terzo e secondo nelle ultime due edizioni, capito? Dietro Kakà, sì, e Cristiano Ronaldo. Il quale Cristiano Ronaldo, per l'amor del cielo, non è che sia tanto distante da Messi, perché è arrivato in finale dopo averla vinta la Champions, quindi è messo, poi vedremo quello che succede nell'ultimo scorcio, il quale ultimo scorcio, a torto o a ragione, secondo me a volte a torto, è quello che però rimane più impresso nei giurati, quindi vediamo quello che succede. Di sicuro Ibra ha voluto rispondere al grande quesito che ci chiediamo tutti, che ci poniamo tutti alla luce della sua doppiezza, cioè enorme in Italia e non enorme, anzi piuttosto normale, in Europa. Cioè, sono così grande io o sono così piccoli gli altri in Italia? E quindi adesso lo sapremo, perché va a curarsi in una clinica che oggi come oggi è la migliore d'Europa, se non del mondo, il Barcellona Football Club. Lo può modellare bene. A questo proposito, per chiudere, lui è stato così grande anche perché è stato messo in condizione o in necessità di esprimere tutto il suo strapotere fisico e tecnico da allenatori che hanno puntato molto sull'individualità. Mourinho ora, Mancini in maniera stilisticamente un po' diversa prima, Capello in un altro modo ancora in precedenza. Sarà normale, semplice per lui adeguarsi a una squadra che gioca in una maniera più organica rispetto a quella in cui lui è dominato ora? È vero il filo conduttore che tu hai sottolineato, però è anche vero che Ajax, Juventus e Inter sono tre squadre abbastanza distinte. Adesso c'è la quarta, è il Barcellona, che è un congegno stupendo. Io penso che Ibra sia un attaccante straordinario sulla carta, perché secondo me assomma le qualità del numero 9 e quelle del numero 10, quindi veramente nel caso specifico, soprattutto a livello domestico, un giocatore fuori catalogo. L'ha voluto Guardiola dopo aver vinto campionato, Coppa dei Campioni o Champions League che dir si voglia, e Coppa del Re di Spagna. Ha ribadito ieri, quindi non un secolo fa, ieri, sono stato io a dire Eto'o può partire, sì, sono stato io a dire voglio Ibrahimovic, quindi da questo matrimonio filosofico vediamo cosa esce. Il calcio non è una riffa, non è una scienza, ed è la grande sfida della prossima stagione. Io penso che Ibrahimovic la vincerà, perché ha tanto talento, però è chiaro che la deve vincere, perché se no resterà sempre non soltanto nell'immaginario popolare, ma anche per l'occhio degli esperti, un grandissimo mezzo giocatore. Grazie Roberto, davvero, a presto. Sappiamo insomma che non sei totalmente impegnato al lavoro in questi giorni, quindi ci fa piacere che tu abbia comunque risposto al nostro invito. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata e buona estate a Roberto Beccantini, collega della Stampa, del Guerin Sportivo. Ci sono già un po' di vostri messaggi al 349-238-6666 e anche ascoltatori in linea all'800-24-00-24. Naturalmente ci saranno anche aggiornamenti sui mondiali di nuoto nel corso di questo appuntamento. Uno di questi messaggi dice: Sergio da Milano, non trovo niente di strano che i tifosi juventini contestino Cannavaro che scappa per primo quando la nave affonda e ha la faccia tosta di ritornare dopo che altri avevano tratto in salvo la società assieme ai tifosi. Fa più scandalo la dirigenza che non rispetta le contestazioni, non è vero che non le rispetta, le considera, chiede che abbiano un termine e non siano infinite, e in ogni caso non va neppure considerato positivo l'atteggiamento opposto a quello che c'era stato ad esempio l'anno scorso, quando la tifoseria aveva nella sostanza osteggiato l'ingaggio di Dejan Stankovic e aveva fatto saltare la trattativa. C'è anche un altro ascoltatore che si firma Ale da Treviso e dice che la Juventus con la vendita di Cannavaro prese soldi che non avrebbe mai preso. È vero, fu una cessione molto fruttuosa per il club, però c'erano anche altri giocatori appunto come Buffon che sarebbero stati venduti a cifre molto alte. È anche vero che non solo la discriminante economica era decisiva ed era da considerare, perché per quella ad esempio fu positivo cedere Ibrahimovic e Vieira, però su altri aspetti, quello tecnico in primis, venne rinforzato in maniera decisiva, soprattutto con Ibrahimovic, la rivale principale di questi anni, degli anni successivi al 2006, ovvero l'Inter. Bentornati, seconda parte di A Tempo di Sport. Ci sono altri messaggi relativamente al tema che abbiamo introdotto con Roberto Beccantini, uno dei temi, ovvero il ritorno di Cannavaro alla Juventus, le sue parole, il rapporto, dice Matteo da Bergamo, tra tifoso e giocatore deve essere un rapporto tipo datore di lavoro dipendente, il calciatore deve dare la massima disponibilità al tifoso, autografi, foto, beneficenza eccetera, chi segue come me gli sport americani sa cosa voglio dire. È vero, poi è anche vero che ci sono spesso tifosi che vanno un po' oltre, non è semplice per questi personaggi essere sempre al massimo della disponibilità. È vero che fa parte del loro lavoro, fa parte della loro professionalità, è anche vero che non sempre sanno con chi hanno a che fare, e non tutti i tifosi hanno lo stesso tipo di rispetto, di considerazione e di modo di rapportarsi a questi giocatori. È chiaro che bisogna trovare un equilibrio, e generalizzare come in tutti i campi non è mai positivo. Umberto da Roma, il primo ascoltatore al 800 24 00 24. Buon pomeriggio. Buonasera. Prego. Buonasera. Senta, io sono felice e la notte dormo molto tranquillo sapendo che i giocatori della Juventus mangiano questo o quell'altro, i giocatori del Milan giocano lì e là, i giocatori dell'Inter idem. Ma l'altro giorno anche c'era Serena con voi, avete parlato sì, di tutte le squadre fuorché dell'Atalanta, della Roma e del Bari. Ma dico, ci sono anche queste squadre nel campionato di calcio, non c'è solo l'Inter, il Milan e la Juventus. No, noi la ringraziamo per avercelo ricordato questo, perché poi tra l'altro tra poco parleremo della Fiorentina ad esempio, ma insomma grazie, non ci ricordavamo che ci sono anche queste squadre. Mi sembra che ne abbiamo parlato nella settimana scorsa, però poi dipende da lei quando ci segue, insomma. Andiamo oltre. Moreno da Milano, buon pomeriggio. Primo pomeriggio, sto a caricare. Buongiorno. Io volevo fare una breve considerazione sul signor Cannavaro. Io non sono, premetto, non sono assolutamente un ultra, nonostante sono abbonato alla Juve da 25 anni circa, ne ho 39. Sì. Però il problema è il punto che il signor Cannavaro questo inverno prima ha fatto carte false per stare a Madrid, poi voleva andare a Napoli, e alla fine come terza situazione ha scelto noi. Secondo me ha aiutato anche abbastanza dal signor lì. Quindi di conseguenza il fatto che pochi ultras ce lo contestino lì a Pinzolo, il problema di fondo è che adesso moltissimi tifosi, ho fatto un piccolo sondaggio con tutti i ragazzi che vengono con me allo stadio, sono sì, assolutamente tutti contrari, a parte quel manipolo di tifosi che lì esprime il proprio dissenso. E intorno alla tifoseria bianconera una gran parte dei tifosi è contrario, anche perché onestamente ha 36 anni, quindi è un investimento sbagliato in pieno. Quindi lei dice fate considerazioni sia di modalità con cui lui se n'è andato e poi è tornato, sia anche di carattere tecnico. Sì, assolutamente, anche perché cioè, ripeto, promettendo che io sono contrario anche se ne aveva 25 di anni, ma questo è il mio parere personale. Però moltissima gente dice, scusa, ma prendo uno di 36 anni, ma a questo punto prendo Lucio di 31, certo, che ne ha 5 meno. Per chiudere, lei che mi pare di capire insomma è abbonato da parecchio, crede e conosce dunque anche le dinamiche dei tifosi allo stadio, crede che poi se dovesse succedere, come è possibile, insomma, che Cannavaro si proponga su buoni livelli tecnici, la Juventus faccia un buon campionato, questo sarà dimenticato e dimenticabile? No, io spero piuttosto in un quieto vivere, perché una polemica del genere sicuramente non giova a nessuno, perché poi dal momento che inizia la stagione bisogna remare tutti dalla stessa parte. Quindi bisogna contestare, che lo si contesti alla prima partita, ma poi basta. Ma questo è il mio parere personale, ripeto, e poi non ha più senso. Ok, non sei d'accordo, ma se tutte le domeniche crei dei problemi sicuramente non vai bene della Juventus, quindi per me basta. Benissimo, grazie Moreno da Milano. Davide da Lodi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Grande coraggio Cannavaro a tornare, eh? Io ho assistito a Juventus Real Madrid, è stato insultato per 30.000 spettatori in maniera veramente incredibile. Una scenetta simpatica era mentre il Real Madrid stava facendo riscaldamento, Raul e Van Nistelrooy, mamma come sento male, Raul e Van Nistelrooy ridevano, avevano le gambe divaricate, stavano facendo stretching, lo guardavano come per dire ma che cosa hai combinato, e lui ha alzato gli occhi come per dire è così, oggi è così. Quindi crede che se ne sia un po' pentito? Secondo me no, lui ha dimostrato grande coraggio per quanto riguarda il Cannavaro uomo. Per quanto riguarda la questione tecnica è un acquisto abbastanza ridicolo, secondo me è un giocatore, secondo io spero, sono juventino e spero che mi smentisca, ma secondo me è un giocatore finito. Ho visto Real Madrid l'anno scorso, ho visto le sue prestazioni in nazionale, insomma lascia desiderare adesso purtroppo. In confronto alla difesa dell'Inter c'è un abisso. Se la Juve avesse comprato Lucio, allora sì, ero veramente contento, perché lui sì che è uno dei migliori centrali del mondo. Benissimo, grazie Davide Dalodi. Aggiungo una considerazione rispetto a questo, mentre sono arrivate anche le prime parole di Lucio, che si è detto a Los Angeles orgoglioso di essere all'Inter e di far parte di un club come l'Inter, e qui, ha detto il brasiliano, per dare il meglio di se stesso e continuare a vincere. Aggiungo una considerazione su Cannavaro, sul Real Madrid, nel senso che anche Samuel, che la Roma ci dette a Real Madrid, aveva giocato a livelli spaventosi in Italia e affrontò gli anni peggiori della sua carriera europea proprio a Madrid, perché come spesso accade, molto spesso la fortuna dei grandi difensori è anche quella di avere uno scudo notevole davanti a sé. A Real non è stato così per molti anni, soprattutto nell'era più estrema dei Galacticos, quando c'erano solo giocatori offensivi. Chiaramente i difensori poi soffrono, perché sono spesso in inferiorità numerica, in affanno a rincorrere, non ci sono le distanze giuste, quindi è vero che Cannavaro ha sofferto soprattutto in alcune fasi delle sue stagioni a Madrid. È anche vero che se avesse davanti a sé Felipe Melo e Sissoko, come si prospetta nella prossima stagione, potrà vivere un po' più protetto, non come quando al suo fianco c'era Thuram e davanti Emerson e Vieira. Quella è una composizione irripetibile per qualità tecniche e tattiche, però comunque è una protezione superiore rispetto a quella che poteva garantire ad esempio Guti. Paolo da Campobasso, buon pomeriggio. Buongiorno, sì, grazie per l'opportunità. Io parlerò, mi dispiace anche per voi, di Cannavaro, ma lo utilizzerò incidentalmente per esprimere un mio rammarico. Il rammarico di una persona, insomma di un adulto che ama il calcio, ma veramente il calcio, magari anche quello giocato, e si rattrista per il fatto che non possa portare i propri bambini allo stadio a vedere le partite, perché ormai è diventato soltanto un fare il tifo, non tifo, offendere gli avversari e non fare il tifo per la propria squadra. E quindi questo poi porta tutto ad essere esasperato. Ad esasperato, ma non poter godere di uno spettacolo tale, io ritengo, dovrebbe essere il calcio e lo sport in generale, oltre ai valori che dovrebbe portare in giro. E detto questo, però, mi rendo conto che in fin dei conti il calcio è uno specchio della realtà, no, che ci circonda, e non è uno specchio fedele, e tant'è, dobbiamo purtroppo fare di necessità virtù e accettare così com'è. Benissimo, grazie per il suo intervento e per le sue considerazioni. È chiaro, insomma, che in Inghilterra si va più volentieri allo stadio per tanti motivi, in Italia un po' meno per tanti altri, e dipende da aspetti culturali nostri e anche da strutture, quello che abbiamo detto più volte nel corso di questi appuntamenti, che non aiutano l'entusiasmo di recarsi allo stadio. C'è un ascoltatore che non si firma, ma dice che spesso anzi raramente si parla qui di Fiorentina, Genoa e Palermo, quest'anno ci toccherà di farlo più spesso, non mi sembra che non se ne parli, però nel caso specifico effettivamente sono realtà che si stanno migliorando in maniera più o meno evidente, più o meno accettata e accreditata dalle rispettive piazze. Tra poco parleremo in particolare di Fiorentina, c'è anche il Napoli, ci sono le romane, insomma, ma abbiamo attenzione per tutti e lo faremo in questi giorni. Alberto dalla provincia di Macerata per chiudere questa serie di interventi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, volevo parlare della questione Cafaro. Io sì, credo che bisognerebbe analizzare la questione nell'ambito dei del periodo in cui c'è stata la cessione di Cannavaro. In a quell'epoca io credo che la Juventus fece la scelta giusta, perché aveva bisogno di soldi anche per poter trattenere altri campioni, e in quel ruolo secondo me la società ha visto la possibilità di poter sostituire in maniera forse meno impegnativa di dover vendere un Del Piero, un Nedved o altri giocatori che all'epoca poi sono rimasti in Serie B. Oggi secondo me va vista la cosa come un giocatore che può dare il suo maggior forse non tanto tecnicamente, anche se io sono convinto che lo farà anche in questo senso, ma più che altro per far crescere ad esempio un giocatore come Ariaudo. Sì, ma non c'è bisogno del tutore in campo per questo, c'è già Ferrara che è un grandissimo difensore che fa l'allenatore, per cui non è giustificabile solo con questo l'acquisto di Cannavaro. Può essere utile sul piano tecnico dell'esperienza, perché comunque siamo in un campionato italiano in cui certi valori non sono più così elevati come quando lui se n'è andato, e quindi può essere in grado di dare il suo apporto per l'esperienza che ha, per le capacità carismatiche che ha e anche all'interno dello spogliatoio. Un aggiornamento dal Tour de France, perché Franco Pellizzotti, maglia Pua, è in fuga con Vladimir Karpets, il russo, dopo una quarantina di chilometri di questa tappa, con la possibilità di avere in questo momento un vantaggio di 1,50 sul gruppo della maglia gialla, 1,54 in questo momento. Siamo però ben distanti dall'arrivo in Val d'Aosta di questa tappa, 118 chilometri, un altro spunto comunque che ribadisce la buona condizione di Pellizzotti in questo Tour de France. Per quanto riguarda il nuoto, ne parleremo tra poco con il nostro inviato a Roma, Dario Ricci. Vi ricordo ancora il quarto posto nella 5 km di fondo in mattinata di Luca Ferretti, e l'attesa per la finale del trampolino da 3 metri con Tania Cagnotto. Si parte alle 15.30, completo anche le vostre considerazioni, i vostri pensieri al 349-238-6666. Molti sono sul tema di Fabio Cannavaro, ma anche del rapporto tra i tifosi e i club, e c'è un ascoltatore da Campobasso che dice credo che il parere dei tifosi non debba avere questo peso, visto che sono le società che spendono, le tifoserie hanno la possibilità semplicemente di scegliere se abbonarsi o meno. Mentre Roberto da Bergamo dice: non vi ricordate la manfrina che Cannavaro fece per scappare dall'Inter? Non fu una espressione di altissimo stile effettivamente. E poi c'è Marco da Milano che però dice: Melberg, Ariaudo e soci non fanno mezzo Cannavaro, in un mondo di mercenari e moralisti come il calcio è il minore dei mali. Questo era Marco da Milano. Altre telefonate più tardi all'800 24 00 24. Ora, siccome, come qualcuno di voi spesso ci ricorda più o meno ironicamente, non ci sono solo le squadre con le maglie a strisce, ci colleghiamo con Firenze, con un analista ormai da alcuni anni per la 7 in particolare, che è molto legato all'ambiente di Firenze e della Fiorentina. Massimo Orlando, benvenuto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ci racconti qual è l'atmosfera a Firenze dopo le dichiarazioni di Prandelli, che dice comunque nel progetto Scudetto io continuo a credere, dopo che gli abbonati sono calati in parte rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma a questa fase di luglio comunque la cifra di 15.000 viene considerata tutto sommato positiva. Cosa si dice a Firenze? Ma guarda, sai, l'anno scorso bisogna dire che c'era stata una campagna acquisti molto importanti, 50 milioni di euro investiti, se ricordi, giocatori di qualità, e c'era molto più entusiasmo, però Firenze è una piazza che risponde sempre con i numeri, 15.000 non mi sembra un numero da poco. Io credo che, io ho parlato con tanti tifosi, l'umore lo vivo, non sono contentissimi, c'è stata la cessione di Felipe Melo, un giocatore straordinario che insomma qui la gente, anche soprattutto per dove è andato a giocare, sappiamo quanto sia difficile digerire per un tifoso della Fiorentina insomma la cessione alla Juventus, però diciamo che credono molto nel progetto, e soprattutto credono in Prandelli e Corvino, al di là di qualche malumore, però la gente comunque si fida di questa società, di questo allenatore. Oggi ha rinnovato fino al 2012 Pasquale, è stato presentato Castillo che ha firmato un contratto biennale, sarà il vice del Gilardino, ci sono ancora una ventina di milioni a disposizione di Corvino, il pensiero comune che verranno investiti sul mercato. Di cosa ha bisogno di più questa squadra, secondo te, Massimo, per progredire ulteriormente? Un difensore centrale, un centrocampista centrale, cos'altro? Sì, tu sei molto esperto, hai trovato veramente le due pedine che mancano, e soprattutto quello che sta cercando Corvino, il difensore centrale, perché è stato acquistato Natali, un buonissimo giocatore, però insomma anche e soprattutto per l'esperienza europea, che là dove la Fiorentina secondo me troverà molte difficoltà, un giocatore di qualità ed esperienza, e insomma centralmente lì c'è bisogno, e dopo un sostituto di Felipe Melo, perché è vero che Donadello è un giocatore che in quel ruolo ha fatto bene quando è stato chiamato in causa, però insomma non è Felipe Melo. Esattamente questo. Prandelli viene considerato da tutti un istruttore di calcio tra i migliori in Italia, l'ha fatto vedere benissimo a Parma, avrebbe probabilmente fatto bene, aperto un ciclo a Roma, ora è a Firenze da diversi anni. Credi che proporrà qualcosa di diverso nella prossima stagione, oppure la sua squadra già ha proposto delle varianti nel corso dello scorso campionato, cambiando anche in alcune fasi modulo, e quindi il sistema di gioco si ripartirà più o meno da quello? Sì, credo di sì. La Fiorentina dell'anno scorso sinceramente è stata una brutta Fiorentina, c'è stato il grande risultato del quarto posto, ma non ha giocato bene, spesso è stata salvata da Frey e dopo i grandi singoli che ha a disposizione hanno fatto la differenza, Gilardino, Mutu, Melo, questi giocatori molto importanti, però io credo che quest'anno mister voglia proporre il 4-2-3-1 con due giocatori in mezzo al centrocampo, e lì davanti ha molta carne al fuoco, perché insomma recupera Mutu, recupera anche di Santana, Marchionni, lo spostamento in avanti da parte di Vargas, Jovetic, insomma c'è tanta possibilità di avere più moduli a disposizione. Io credo che il vero problema sia quello che dicevamo prima io e te, di trovare un sostituto di Melo, e dopo la Fiorentina, che dobbiamo considerare che è un gruppo che gioca con gli stessi uomini praticamente da 4 anni, sarà la solita squadra difficile da incontrare, e secondo me farà bene anche nel prossimo campionato. Parlando più nello specifico dei giocatori e delle loro caratteristiche individuali, credi che la maturazione di Montolivo sia ormai completata? Credi che lui possa fare un salto di qualità ulteriore, che possa diventare un giocatore stabilmente da nazionale per i prossimi mondiali? Ma io credo che lui debba fare un grosso salto di qualità in questo campionato se vuole arrivare ai mondiali, perché è vero che è un giocatore di qualità che ormai è stabilmente nel giro della nazionale, ma insomma io 3 anni che vedo tutte le partite della Fiorentina, devo dire che spesso si limita a fare il compitino, si vede che ha grandi mezzi, però secondo me il giocatore moderno, il centrocampista deve far tutto, cioè deve essere bravo nell'impostazione, deve fare gol, e lui in questo secondo me si limita un po' troppo poco nel compitino, accompagna poco l'azione, insomma un giocatore che deve completare il suo modo di giocare, più convinto se vuole arrivare ad essere un centrocampista titolare della nazionale. Per chiudere, Jovetic, che in Serbia giocava anche da centravanti, soprattutto da centravanti, potrebbe essere eventualmente anche un'alternativa a Gerardino nei casi di emergenza. Non solo Castillo può rispondere a queste esigenze. È un giocatore che era arrivato con grande entusiasmo ed era anche accompagnato da critiche molto positive. L'anno scorso ha mostrato in alcuni momenti a Torino con la Juventus e non solo di avere delle qualità spaventose. La continuità, secondo te, sarà raggiungibile nel suo rendimento, oppure è uno di quei giocatori dai quali dobbiamo aspettarci, possiamo anche concedergli qualche pausa nel corso della partita della stagione? Io però credo che per lui sarà difficile quest'anno avere continuità, cioè essere titolare, perché se il mister vuole giocare col 4-2-3-1, gli esterni molto probabilmente saranno Vargas e Marchionne o Santana, e centralmente giocherà Mutu. Non ci sarà grande spazio per Jovetic, che fra l'altro, parlando anche con mister Prandelli, anche lui ancora non ha capito bene quale sia il vero ruolo, perché è stato provato come esterno, come seconda punta, come trequartista. Ha grandi qualità, ma come tu ben sai, quello è un ruolo sempre molto difficile, ecco, un giocatore che ancora non ha trovato la posizione in campo. Dovrà essere bravo il mister Prandelli, ma in questo sappiamo che lui con i giovani lavora molto bene, però secondo me almeno inizialmente avrà poca possibilità di giocare. Grazie, a presto Massimo Orlando. Grazie a te. Grazie a Massimo Orlando da Firenze, ci ha raccontato la situazione in questo momento a Firenze, come viene vissuta e percepita anche l'aspettativa del popolo viola per la stagione che inizierà prima che per altre squadre, con il preliminare di Europa League 18-19 agosto, il match di andata. Altri ascoltatori al 800 24 00 24. Da Vicenza ha chiamato Matteo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio signor Massimo, buon pomeriggio. Ascolti, volevo chiederle un suo parere tecnico per quanto riguarda i due giocatori del Cruzeiro che ho visto l'altra sera su Sky, no? Che sono Kleber e Maurizio. Io diciamo sono tifoso juventino da una vita e mi pare che possano fare il caso della Juventus questi due giocatori qua. Addirittura? Sì, assolutamente. Mi pare, almeno averli visti due o tre volte, mi sono piaciuti, diciamo. Dopo non lo so, lei cosa pensa, visto che è esperto in calcio latinoamericano, diciamo. Ecco. No, la ringrazio della stima, però non è facile, nel senso che inserirsi a un alto livello nel campionato italiano per un giocatore come Kleber, che ha giocato ad esempio nella Dinamo di Kiev, non è semplice imporsi poi in Italia. Tenga presente che è un calcio molto lento quello brasiliano, quello sudamericano in generale ha caratteristiche che si differenziano da un paese all'altro, quello argentino e quello brasiliano sono già molto diversi, è molto più agonistico quello argentino, mentre quello brasiliano è più tecnico, ma è sempre più lento rispetto anche agli anni scorsi, perché poi i giocatori più giovani se ne vanno sempre prima ogni anno che passa, e quindi spesso tornano poi giocatori che non si sono inseriti al meglio nel calcio europeo, magari cercano di avere una seconda possibilità qualche anno dopo essere tornati in patria. Però i nomi che lei ha fatto non sono probabilmente all'altezza del calcio italiano, di una realtà soprattutto come quella della Juventus, in cui c'è grandissima necessità di vincere subito, e i giovani che sono in rosa non trovano spazio, pur avendo mostrato di avere delle ottime qualità. Marchisio e De Celje forse ancor più di Giovinco, per la concretezza che hanno dimostrato quando sono stati impiegati. C'è un messaggio che mi fa sorridere, perché comunque è posto un giudizio abbastanza deciso in maniera ironica da parte di un ascoltatore che si firma Roberto Corri da Arezzo. Dice: finalmente due parole sulla Fiorentina, anche se non sono tifoso, ogni tanto sentirne parlare fa bene. Poi soprattutto Montolivo mi sa che più di lì non va. Marco da Milano, buon pomeriggio. Buongiorno. Prego. Io chiamavo per fare un punto sul Milan, sì. Dove tutti, il Milan è diviso a metà, diciamo, critica, tifosi. C'era il Milan pro Ancelotti, il Milan contro Ancelotti. Io ero contro Ancelotti, qualche volta ho chiamato anche col suo collega Garanzini, sì. Il quale non pensava come me, mi metteva sempre giù la cornetta. finalmente il nostro presidente, che ne sa secondo me più di tutti, ha detto: se il Milan ha perso il campionato è colpa di Ancelotti e l'ha allontanato. Io sono contentissimo che sia andato via Kakà, perché secondo me non dava spazio a Ronaldinho, dove io ho una fiducia immensa. Sono contentissimo che Pirlo e Seedorf sono finalmente messi in discussione dal nuovo allenatore, perché non se ne poteva più. E sono contento di come sta gestendo il Milan adesso la situazione. Milan che corre, Milan dei giovani, spero arrivi un buon centravanti, e sono convinto che senz'altro facciamo meglio di Ancelotti. La riprova ne sarà, speriamo che Pirlo vada al Chelsea, e poi vediamo il Chelsea cosa fa il prossimo anno rispetto a noi. Bene, grazie. Certo, è un discorso ampio, lei è molto deciso, molto assoluto nella sua opinione. Io sono sempre dell'idea che se un allenatore dell'esperienza di Ancelotti, che ha guidato anche la Juventus e poi ancora prima il Parma, ha giocato ad altissimo livello, decide di impostare la sua gestione in un certo modo, evidentemente perché quella è la gestione migliore, secondo lui, la migliore possibile in quel contesto, in cui sa che ci sono giocatori che rimangono nel club per diversi anni, sa che ci sono gerarchie anche che la società ha piacere che vengano ribadite all'interno dello spogliatoio, sa che ci sono giocatori che individualmente possono decidere la partita, e sa anche che ci sono giocatori come Seedorf, ad esempio, che hanno fisiologicamente nelle loro caratteristiche delle pause nel corso di una partita o di un campionato, e per avere i picchi di rendimento bisogna anche accettare le loro fasi più basse nell'ambito della stagione. Detto tutto questo, è chiaro che era necessario per tutti, probabilmente anche per Ancelotti, ora un cambio di realtà e di atmosfera. Lui è arrivato al Chelsea, ad esempio, a riprova di quello che ho detto prima, in una realtà diversa, e ha subito detto cose che al Milan raramente aveva messo in pratica e detto, ovvero qui nessuno è titolare garantito, non ci sono 11 titolari, ma c'è spazio per tutti. È una competitività che sicuramente aiuta, e quella su cui si basa Leonardo, che ha cercato anche di togliere subito alibi ai suoi sin dall'inizio di questa stagione. Sono grandi idee quelle di Leonardo, però bisogna capire se c'è la realtà per metterle in pratica subito, e se la gente poi avrà la pazienza anche di appoggiare le scelte di Leonardo e di aspettare risultati che potrebbero non arrivare subito. Fondamentale sarà il recupero di Nesta, perché se non ci fosse il recupero di Nesta sarebbe poi un problema anche l'inserimento di Thiago Silva, che potrebbe avere qualche difficoltà in più a inserirsi nel nostro campionato, pur avendo buone ottime qualità. Gianluca da Treviso, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ascolti, volevo avevo due domande da farle. Io sono un tifoso del Napoli. Allora, sì, ieri guardando Sky Sport 24 ho visto un titolo che diceva che era sfumato l'acquisto di Obinna e anche forse quello di De Santis, e tutto ciò era dovuto ai diritti di immagine. Volevo una spiegazione. Non è semplice, nel senso che è una questione capire po' intricata. Più o meno cos'è che, cioè, in che senso diritti di immagine di cosa? Perché Non è semplice, è un tema che ci siamo ripromessi di affrontare poi in questi giorni anche con i colleghi del Sole 24 Ore. Parleremo di ingaggi in generale e poi inseriremo anche questo aspetto, che ad esempio pure nel contratto di Ibrahimovic ha un peso notevole, nel suo contratto prossimo futuro, del quale si parla in maniera sempre più insistente a Barcellona. C'era un'altra domanda o no? Un'altra domanda, visto che lei è un esperto di calcio sudamericano, per Dennis, visto l'altalenante stagione dell'anno scorso, lei lo reputa un giocatore da Napoli? Grazie. Grazie a lei. Sì e no, nel senso che non è un giocatore sul quale si può costruire il tentativo di fare un salto di qualità rispetto all'anno scorso. È anche vero che l'anno scorso in generale tutta la squadra ha avuto delle difficoltà. Dennis aveva fatto molto bene in Argentina all'Independiente, e sicuramente è arrivato qui con delle caratteristiche più complete, più formate rispetto a quando era stato acquistato qualche anno prima dal Cesena. Aveva fatto molta fatica anche in Serie C in Italia. Ripeto, è stato condizionato dall'andamento generale, da una fase anche di cambio di allenatore, che sicuramente per un argentino che fa fatica a metabolizzare già i metodi di allenamento europei, avere due allenatori nel corso della stessa stagione con tutte le difficoltà che questo comporta non lo ha aiutato, può essere una buona alternativa. Bisogna vedere quali sono le sue aspettative, quali sono quelle che ha la società su di lui. Certo, una coppia d'attacco come Quagliarella Lavezzi e Denis come alternativa andrebbe bene per puntare sicuramente all'UEFA e forse alla Europa League, e sicuramente anche poi per ambire a una posizione più vicina alle prime quattro che portano alla Champions. Tra poco il nuoto, chiudiamo i vostri interventi con Luciano dalla provincia di Ancona. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, prego. Senta, volevo spiegare un desiderio su Fabio Cannavaro, un uomo, non un giocatore, perché come giocatore non lo discuto, ma come uomo, anche perché io sono un tifoso interista e sono rimasto ancora un po' con il dente avvelenato come ha lasciato l'Inter, perché mi ricordo, fece la prima parte della preparazione a Brunico con l'Inter dicendo che aveva un problema a un ginocchio, svolgendo soltanto la sigletta. Al martedì è stato ceduto alla Juventus, al giovedì è stato presentato alla Juventus e al sabato ha fatto l'amichevole con la Juventus. Ma magari lunedì o la domenica, si ricorda, c'era stata anche qualche telefonata, no? Sì, c'era stata anche qualche telefonata, d'accordo, però questo è il Cannavaro uomo, che io non lo definisco un uomo, lo definirei con un'altra frase, sempre con la M maiuscola, però non voglio citare per rispetto. Sì, non esageriamo, per rispetto dei spettatori, però se io avessi un figlio si comporta così, gli darei con la M maiuscola che non dico. Va bene, non esageriamo, bene ha fatto ad autocensurarsi, insomma, perché non è il caso di andare oltre. Sono tutte considerazioni queste che abbiamo riscontrato. Ci sono anche, ripeto, tanti ascoltatori che hanno scritto ribadendo che nel calcio la morale e altri aspetti umani hanno un'importanza sino a un certo punto, un senso fino a un certo punto, e quindi bisognerà valutare poi l'operazione sul piano tecnico. È stato comunque interessante, credo, avere tutto questo ventaglio di opinioni, prima quella autorevole di Roberto Beccantini e poi quelle vostre di tifosi della Juventus, non solo, e di altri appassionati che hanno dato la loro opinione. Chiudo la pagina del calcio con una notizia: pericolo scampato per le italiane, perché André Santos del Corinthians, un giocatore di discreto livello ma non da campionato italiano di alto profilo, andrà al Fenerbahce, che sostituirà dunque Roberto Carlos, che aveva finito molto male la sua avventura in Turchia, ormai in là con gli anni. Addirittura si dice che il Corinthians riceverebbe 14 milioni di euro, 9 per André Santos e 5 per Christian, che è centrocampista. Sarebbe un grandissimo affare per il club brasiliano. Il nuoto. Nissan City Cars, welcome to simplicity, vi presenta Roma 2009, mondiali di nuoto. Ci colleghiamo come ogni giorno con Dario Ricci, nostro inviato ai mondiali di Roma. Buon pomeriggio, Dario. Buon pomeriggio, Massimo. È stata un'altra mattinata con il podio Lili, eh? Sì, quarto posto per Luca Ferretti nella 5 km uomini di fondo, Luca bruciato in volata dal sudafricano O, nella gara vinta dal campione del mondo tedesco l'URSS, anche in questo caso in volata davanti al greco Giannotis. Insomma, quarta medaglia di legno per gli azzurri in questi mondiali finora. Sentiamo proprio Luca Ferretti al termine di questa gara della 5 km di fondo. Un'altra medaglia di legno, e nell'imbuto finale mi era sembrato vederne solo due davanti, quindi mi sono visto terzo, contentissimo. Poi quando ho toccato ho visto ce n'era un altro dietro, si è rimasto male, però comunque è sempre un ottimissimo quarto posto, sono contento, è il mio miglior piazzamento in un mondiale, quindi sono più che soddisfatto. Ecco, dal punto di vista tattico, una volata come questa si può gestire meglio in qualche modo? Sì, perché non sono riuscito a esprimermi al meglio nella prima parte del secondo giro. Io ero deciso ad attaccare subito all'inizio, o meglio non subito all'inizio del secondo giro, ma dopo la seconda boa, nel tratto lungo, però niente, non ci sono riuscito, sono rimasto attardato e niente, rammarico per quello. Questo era Luca Ferretti, quarto nel 5 km di fondo alle spalle del sudafricano O nella gara vinta dal tedesco Lurz, secondo il greco Giannotis. Dario Ricci, ieri abbiamo debuttato nella pallanuoto maschile con un risultato non positivo. No, 9-8 per gli statunitensi contro gli azzurri, gli americani del resto vice campioni olimpici e forti, sì, di un lavoro di squadra ormai ininterrotto che dura da circa 8 anni, perché se è bello l'occasione di rivincita è immediata, perché domani sera si gioca la sfida con la Romania, decisiva a questo punto per il passaggio alla seconda fase, stasera sfida altrettanto decisiva per le azzurre contro contro l'Ungheria, ma fra pochissimo c'è già la grande attesa per Tania Cagnotto. Massimo, inseguiamo, sì, finalmente questa prima medaglia del trampolino dei 3 metri. Tania difende il doppio bronzo conquistato negli ultimi 2 mondiali, la grande favorita è Guo Jingjin, che non perde una gara internazionale, pensate, dal 2001, però insomma possiamo veramente prenderla questa volta questa medaglia. Dario, tra un attimo sentiamo Tania Cagnotto, volevo avere da te anche un riscontro su uno dei temi che sono stati affrontati a corredo delle analisi su questi mondiali di nuoto, la partecipazione del pubblico molto numerosa, secondo alcuni resoconti anche molto rumorosa, non propriamente da canoni da piscina mondiale e olimpica. C'è un'evoluzione in questi giorni, il pubblico si sta abituando a vivere le gare non come fossero appuntamenti calcistici? Ma direi di sì, per quanto riguarda appuntamenti come il sincronizzato e soprattutto anche i tuffi. È chiaro che queste manifestazioni avvicinano spesso a queste discipline un pubblico che si accosta per la prima volta e quindi in qualche modo deve imparare anche il linguaggio proprio di queste discipline. Ieri sera, diciamo, il tifo pseudo calcistico ha avuto modo di sfogarsi con assoluta correttezza in una serata veramente piacevole nella piscina della pallanuoto, 5.000 tifosi, 5.000 spettatori in un clima splendido a tifare per il Sette Bello. Grazie Dario, ti salutiamo e ci ascoltiamo insieme l'auspicio di Tania Cagnotto, che parte oggi alle 15.30 a caccia di una medaglia nel trampolino da 3 metri nella finale. Sì, più che altro era una giornata lunga perché abbiamo iniziato alle 10, comunque sono 5 tuffi difficili e è tutto il giorno comunque che sei in tensione, quindi era normale che adesso eravamo un po' tutte più stanche, sicuramente sarà un'altra gara per tutte. Come si gestisce questa vigilia, Tania, con questa pressione, con questa voglia anche di un bel risultato? Non lo so, cerco di stare tranquilla, ma è difficile. Questa era Tania Cagnotto, grazie a Flavio Suardi in redazione, a Peter Bescapè in regia, a Dario Ricci per il suo contributo dai mondiali di nuoto che tornano domani in A Tempo di Sport. Buon pomeriggio su Radio 24 da Massimo Callegari. Roma 2009, mondiali di nuoto, in collaborazione con... Grande dentro e compatta fuori, è Nissan Note GPL, tua con 4.350 euro di vantaggi, inclusa rottamazione. Nissan Note, welcome to simplicity.